i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Comincia tu una volta tanto. Ma volentieri, Deborah. Buona giornata. Eccoci. E buona giornata soprattutto ai nostri ascoltatori. Vorrei fare un po' di rassegna stampa, però prima perché di tutto. N'è. Sì, ci sono diverse notiziuole piccanti, per così dire. Però prima di tutto, allora, vi dico di cosa parleremo questa mattina. Bravo. In questa nostra oretta. Allora, parliamo dell'e-commerce, cioè dell'acquisto di beni e servizi con internet, con il vostro computer, il vostro smartphone o qualsiasi altro device che voi preferiate. Ecco, però avete capito perché gli ho fatto fare il sommario subito, perché si diverte a Mi sono preparato tutta la notte. Perché parliamo dell'e-commerce? Parliamo dell'e-commerce, ma legato alla privacy, cioè al fatto che spesso quando facciamo quegli acquisti in rete, decidiamo di comprare un bene o un servizio in rete, ohimè, vengono prelevati i nostri dati non sempre in linea con quelle che sono le previsioni di legge per chiederci il consenso e poter così scegliere se dare o non dare indiscriminatamente tutti i nostri dati. A volte poi ci vengono chiesti anche dei dati inutili. Vi è successo? Se vi fosse successo, avete dei dubbi, guardate, abbiamo interpellato direttamente il segretario generale del Garante della Privacy, l'avvocato Giuseppe Busia, quindi potete telefonarci come al solito in diretta 800 24 0024, ma se preferite i WhatsApp o gli SMS, Deborah, possono comporre il 349 238 6666, tutti i numeri che possono comporre i nostri cari amici, anche per commentare l'altro grande tema che a loro piacerà moltissimo. A proposito di questioni che ci ha indispettito non poco questa faccenda che è esplosa la scorsa estate delle bollette ogni 28 giorni, quindi la variazione unilaterale dei contratti delle società che operano nel campo dell'energia, della pay TV, delle telecomunicazioni, perché queste comunicazioni, che le bollette sarebbero state cadenzate ogni 28 giorni, aveva fatto veramente molto clamore. È arrivata una proposta di legge con la quale le cose si vorrebbero cambiare. Adesso, a quanto pare, forse ci arriviamo. Sì, però bisogna dire che il rimedio arriverà, da quello che si è potuto capire finora, perché stiamo parlando, per gli amanti delle questioni normative come il sottoscritto, di un emendamento al decreto legge fiscale, quindi niente di ancora vigente. Si partirà a rimediare dal 2018. Esatto. A meno che però non si mettano proprio di traverso, soprattutto le società di telecomunicazioni. A proposito di appassionati, di documenti, normative, eccetera, ma la legge di bilancio, l'hai trovato il testo o no? No, guarda, la legge di bilancio, devo dire con un certo imbarazzo, forse potremmo leggere questo disegno di legge di bilancio, che peraltro sarebbe stato varato al 16 di ottobre, però forse lo vedremo, ma domani, doman l'altro, lunedì, martedì, è atteso comunque in Parlamento. Mi viene da pensare un po' come se al liceo, quando ti chiedevano il compito di matematica da fare entro lunedì mattina, tu glielo consegnavi il giovedì. Con calma, te lo facevi con calma, così lo facevi giusto. Speriamo che sia meravigliosa a questo punto, vista la quantità di limature a cui la stiamo sottoponendo. Senti un po', ma lo sai quanti sono, a proposito di notizie divertenti con le quali stamattina possiamo intrattenere, divertendoli a loro volta, i nostri ascoltatori, quanti sono i miliardari super icconi nel mondo? Perché ieri è stato diffuso questo dato che pure ci ha appassionato stamattina, perché gli italiani ce ne sono un po', chissà, sì, a fare l'appello. Ho letto che ci sono 42 miliardari italiani, allora, posto che tu e io siamo due, ovvio. Gli altri 40 possono chiamarci in diretta all'800 24 00 24 per condividere con noi questa triste situazione. Ma nel frattempo in Asia ne nasce uno ogni due giorni. Quindi è interessante anche da sapere, miliardario o miliardaria, perché non sappiamo, non ci è dato di conoscere il genere. E gli asiatici sono di più degli statunitensi, perché in Asia ce ne sono 637, negli Stati Uniti 563. Un sorpasso che per la prima volta è accaduto, mi pare, nella storia di questa rilevazione. Ma pensa tu. Vabbò, detto questo, l'ultima della nostra rassegna stampa la devi assolutamente dire tu, perché questa già ci aveva un po' appassionato qualche giorno fa, quando avevamo invitato i nostri ascoltatori a farci l'elenco di tutte le imposte, le tasse, i balzelli più insopportabili. L'elenco era stato lunghissimo, ma la palma l'aveva vinta l'impresario di pompe funebri di Como, che ci aveva raccontato che c'è la famosa tassa sul... C'era un'imposta sul morto locale, un'imposta locale. Però adesso ci segnalano che sarebbe in preparazione, in virtù di un disegno di legge che si sta discutendo, poi vedremo perché la legislatura non durerà più tantissimo. Senta che il testo esca da qualche parte. Ecco, in virtù di un disegno di legge che dovrebbe riordinare tutto il settore dei servizi funerari, si sta discutendo di una sorta di imposta sul morto. Anche lì poi con aggravi di IVA, ma visto che poi settimana prossima è la settimana in cui si celebrerà la ricorrenza dei defunti, vabbè, allora magari dedicheremo un c'è imposta per te a queste particolari imposte, esatto, che gravano appunto sui servizi ultimi, davvero possiamo dire. Salutiamo intanto Simone da Cuneo che ci dice: io sono miliardario ma in rupie nepalesi, e con questa direi che stamattina possiamo partire. Ma guarda che in tempi non sospetti Michael Jackson aveva cantato una canzone sulla privacy, ma questa non la sapevo. Lui diceva che appunto aveva bisogno di privacy. Avvocato Busia, tutti avremmo bisogno di più privacy nell'e-commerce. Voi avete preso una decisione importante poche settimane fa. Sì, buongiorno. Buongiorno. Si trattava di un sito e-commerce che, come si diceva prima, raccoglieva per poter navigare nel sito e-commerce, quindi per guardare quello che è l'equivalente di una vetrina di un negozio, richiedeva non solo una serie di dati forse eccedenti, ma poi obbligava a ricevere anche pubblicità. E questo non è possibile. Noi abbiamo c'erano state delle segnalazioni, abbiamo fatto anche delle ispezioni per verificare meglio cosa accadeva, e sostanzialmente alla fine abbiamo detto non si può fare, non si può fare per diverse ragioni. Abbiamo un divieto, probabilmente ci saranno delle sanzioni, c'è stata già un avvio della procedura sanzionatoria, ma al di là di questo qual è il senso? Quando si naviga per esempio su un sito e-commerce e quindi non si ha necessità di consegnare i propri dati e soprattutto sottoporsi alla ricezione successiva di email pubblicitarie e promozionali di vario tipo, il titolare del sito e-commerce non può costringerci a appunto dare un senso di fatto obbligato e quindi essere poi bersagliati da email pubblicitarie. Noi abbiamo vietato questo e sanzioneremo per questa violazione delle regole sulla protezione dei dati. Generalmente però, avvocato, i portali o le società di qualunque tipo, di fronte alle sanzioni delle autorità che in questi anni ne hanno appunto irrogate parecchie sì, per ogni problema, per ogni campo, non è che abbiano tanta paura, molto spesso mettono a bilancio anche queste cifre. Di che tipo di sanzioni stiamo parlando intanto? Guardi, ad oggi le sanzioni possono essere, diciamo, arrivano al massimo per le violazioni più gravi, ad oggi 500.000 euro, sono per l'informativa, cioè non mi hanno detto prima cosa avrebbero fatto dei miei dati, da 6 a 36 e poi per i casi più gravi, da 6 a 36.000 e per i casi più gravi aumentabili, e perché non mi hanno chiesto un consenso libero, perché nel momento in cui io do il consenso, ma il consenso non è libero perché per guardare la vetrina mi dicono accetta che ti mandi pubblicità, in quel caso il consenso non è libero e deve essere libero, da 10 a 120.000 euro, ma da maggio prossimo l'entità cambia. Noi ci siamo trovati a sanzionare anche appunto operatori come i grandi del web con sanzioni di 1 milione di euro, che però fanno il solletico questi operatori. Da maggio prossimo le sanzioni salgono a fino al 4% del fatturato globale, il che vuol dire che come dire, anche i grandissimi operatori potrebbero trovarsi a sanzioni che sono decine di volte i milioni di euro che noi abbiamo dato, e quindi come dire, dal punto di vista sanzionatorio, una legge europea, perché entrerà in vigore un regolamento europeo che è stato già approvato, abbiamo avuto un tempo per e tutti hanno avuto un tempo per adattarsi a questo. Dal 25 maggio 2018 entra in vigore, le sanzioni saranno veramente pesanti e i grandissimi, che sono i padroni del web, non potranno sfuggirgli per due elementi importanti. Uno, si applica anche ai giganti del web che risiedono fuori, siano gli Stati Uniti, come sono il grosso di quelli che conosciamo, sia la Cina, ecco, i miliardari stanno nascendo anche lì, e Alibaba insegna, parlando di e-commerce, come dire, il mondo si sta spostando anche lì, ma la regola della protezione dei dati dice io, ovunque risieda, per ragioni fiscali o altro, ovunque vi sia posizionato o stabilito, se uso dati di cittadini europei, devo applicare la legge europea. E quindi anche a questi giganti si applicherà. E quanto più sono giganti, tanto più potrà essere ingente la sanzione. Già ci sono tutti questi call center che operano in varie regioni d'Europa, ci arrivano delle curiose telefonate dall'Albania. Ti immagini ricevere la chiamata dell'operatore cinese che ti fa una proposta commerciale, Mauro? Ma perché, vedi, Deborah, è proprio quello il problema. Io chiedo anche conferma all'avvocato Busia. È molto comodo fare acquisti su internet. Io lo chiedo anche ai nostri ascoltatori, probabilmente molti di voi lo hanno fatto, lo fanno, sì. È molto comodo, però alle volte questo comporta magari la rinuncia appunto ai nostri dati, che possono essere non solo il nome, cognome e l'indirizzo email, ma talvolta anche il numero di telefono, talvolta l'indirizzo di casa, eccetera. E questo non ci viene chiesto, ci viene in qualche modo, per così dire, carpito. Allora, poi riceviamo, magari sarà capitato anche ai nostri ascoltatori, a me personalmente è capitato, ricevere telefonate con strane offerte commerciali, esatto, da parte di aziende che non abbiamo mai frequentato né nel mondo fisico né nel mondo digitale. Infatti, a me perché... tipicamente, avvocato Busia, stanno arrivando per esempio delle proposte per acquistare dei depuratori d'acqua per la mia casa. Io non ho la più pallida idea come questi possono essere entrati in possesso, mentre per altri ambiti mi può venire in mente la modalità, perché comunque anche io, come diceva Mauro, su internet smanetto e qualche acquisto lo faccio, ma per quel settore lì proprio non capisco. Per cui è evidente che qualcuno a questi signori ha venduto i miei dati, no? Purtroppo questo è il fenomeno. Adesso ci siamo spostati da internet alle telefonate, e a volte i dati possono essere, il numero di può essere preso da internet, a volte può essere preso in modo non legittimo da elenchi o anche solo perché è disponibile. Io metto su internet il mio numero di telefono perché è un'attività commerciale e vengo bersagliato di telefonate. Questo non va bene, diciamo, è vietato, noi abbiamo anche lì sanzionato ampiamente, eccetera. Esiste, qual è la regola in parte diversa, spostandoci alle telefonate che assillano ai noi tutti gli italiani? Esiste una regola che noi abbiamo criticato, è stata introdotta dal 2011, la combattiamo, c'è un disegno di legge che speriamo arrivi in questo scorcio di legislatura alla fine, per quanto sia stato peggiorato ultimamente dalla navette, manca una lettura che speriamo possa essere data in legislativa, perché tutte le forze politiche erano a parole d'accordo. Qual è il problema? Oggi si è rovesciata l'idea del dare il consenso prima, noi per evitare di ricevere telefonate dobbiamo mettere fuori dalla nostra porta un cartello con scritto non disturbare. Come si fa? Ci si iscrive al cosiddetto registro delle opposizioni. Ahi noi, questo registro delle opposizioni lo dice lei funziona. Direttamente, avvocato, infatti. Non funziona come dovrebbe. Quello che noi chiediamo è, da un lato, che l'iscrizione sia possibile anche per, ad esempio, i numeri cellulari. Sempre più spesso siamo tempestati da questo, questi non sono numeri inseriti negli elenchi, invece il registro delle opposizioni serve solo per i numeri inseriti negli elenchi. E dall'altro, e soprattutto, vorremmo che quando io mi iscrivo sul registro delle opposizioni, questo cancelli tutti i consensi che ho dato in precedenza. E qui c'è un pezzo di responsabilità nostra. Troppo spesso, per ottenere lo sconto, per avere la carta fedeltà, eccetera, con leggerezza noi diamo i nostri dati e flegghiamo anche un po' di caselline in più, senza leggere quelle informative che purtroppo sono spesso troppo lunghe. E non comprensibili, e anche questo è un elemento di non chiarezza che ci viene dato, che invece dovremmo pretendere. Però una volta che noi diamo il via libera, magari anche alla cessione dei terzi, capita che chiamino quelli che reclamizzano autoclavi o le cose più strane di cui magari non abbiamo il depuratore interesse. Dell'acqua per la il depuratore dell'acqua, decalcificatore. Almeno quello un po' si avvicina un po' di più, ma insomma, quello che sia, ci disturba, noi non li vogliamo ricevere. Quello che noi chiediamo, e speriamo il legislatore ci aiuti in questo, perché ha fatto una legge sbagliata nel 2011 e speriamo adesso la corregga, anche perché è controproducente per le stesse aziende. Quando io raggiungo un consumatore che è stanco delle telefonate, esausto, non ne può più, è difficile, salvo che lo truffi, cosa che a volte accade, che io riesca a concludere un contratto con lui, e quindi diventa un'attività onerosa e controproducente per chi la fa, oltre che per il consumatore o per l'utente che viene disturbato nella sua vita privata. Avvocato, per cui quello che chiediamo anche è appunto che ci sia possibilità di cancellare tutti i consensi precedenti, e ultimo punto essenziale, responsabilità solidale fra il call center che ci chiama è l'operatore a vantaggio del quale la pubblicità è fatta. Noi troppo spesso andiamo e troviamo dei call center magari appunto dislocati in Albania o in Tunisia o dove che siano, e l'operatore a vantaggio del quale è fatta la chiamata si dissocia e dice: no, io ho dato con ampi contratti che ci può dimostrare, è lui che ha fatto l'errore, lui è responsabile, io gli avevo raccomandato di rispettare la legge. Se ci fosse una responsabilità solidale avremmo un doppio vantaggio: uno, troveremmo subito l'operatore grosso, si sa benissimo a vantaggio di chi è stata fatta la pubblicità, lui paga le sanzioni, e se le sanzioni sarebbero tanto più grandi perché ci riferiamo al suo, sul calcolo che dice, il prodotto globale di quell'azienda, e quindi una sanzione pesante. Terza cosa, dal punto di vista occupazionale, avrebbe meno interesse a dislocare in Tunisia o in Albania o in luoghi improbabili da parte di operatori poco seri, e si innesterebbe invece un circolo virtuoso, salvaguardando anche una parte dell'occupazione che è di giovani e meno giovani che lavorano nei call center. Avvocato, le faccio fare un passo indietro su una cosa che lei ha detto, il famoso consenso che deve essere differenziato, perché questo raramente si vede su internet, ma qualche volta anche nel mondo reale, nel mondo fisico, non ci fanno distinguere, non ci è data la possibilità di distinguere tra la cessione dei nostri dati all'operatore con cui stiamo trattando, e quindi questo è una cosa abbastanza normale, nel senso che trattandosi di un servizio che magari ci deve essere erogato al nostro indirizzo, dobbiamo concedere i nostri dati. Ma poi ci sono, se ricordo bene la norma, altri due passaggi: l'uno la cessione a società del gruppo dello stesso operatore, l'altro cessione a terzi. In realtà spesso questa tripartizione non si vede, cioè non capita di vederla. È così? Vi risulta? In molti casi non viene fatta, e noi abbiamo tante sanzioni, sanzionato in tanti casi proprio per questo. Uno dei casi, i casi sul web sono tipicamente o il consenso preflaggato, quindi ti obbligo, oppure, anche se non ti obbligo, ti metto la casellina col flag già inserito. In questo caso, poiché la nostra regola è quella dell'opt-in, non dell'opt-out, quindi sono io che devo dare il consenso positivo e devo flaggare perché me ne renda conto, anche in questo caso è una violazione, ci sono sanzioni. È importante, proprio perché il consenso deve essere libero, da un lato non vincolarmi, come nel caso che abbiamo visto, io per vedere, per entrare nel sito web e guardare la vetrina del sito e-commerce, devo dare il consenso alla pubblicità, non è possibile, il consenso alla protezione, al ricevimento di pubblicità va dato separatamente, e la cessione a terzi pure, proprio perché la cessione a terzi, come ricordavamo prima, per l'autoclave è un qualcosa, la cessione comporta che poi mi arrivi pubblicità di terzi, e di questi terzi, se io non sono stato informato, non so neanche dove esercitare i diritti, perché l'altra cosa che dobbiamo ricordare a tutti gli ascoltatori è che ognuno ha per il diritto di opporsi all'ulteriore, anche se ha dato il consenso, anche se l'ha dato bene, anche se l'ha dato col flag differenziato, eccetera eccetera, e quindi diciamo l'impresa che me l'ha chiesto si è comportata correttamente, io ho sempre il diritto di oppormi alla ricezione di ulteriori comunicazioni promozionali, e questo è un diritto sancito dall'attuale normativa italiana, confermato e rafforzato dalla normativa europea. Intanto, di fronte a tutto ciò, gli ascoltatori si inventano di tutto per difendersi appunto da queste ricerche di queste società che trafficano con i nostri dati personali. Intanto Ugo ci racconta che quando avverte l'operatore che sta per registrare la telefonata, questi chiudono la chiamata. Un altro ascoltatore, Stefano, dice: io mi sto facendo la fama dell'orso ma non scarico quasi nulla. Terzo caso, quello di Paolo, che ci racconta: un bel numero farlocco, una mail dedicata, risolto il 90% dei problemi, lui non viene tormentato da nessuno. Detto questo, perché invece in buona fede, sentiamo come può difendersi. Per esempio, una domanda in questo senso ce la pone Letizia da Macerata. Letizia. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In realtà in parte avete già risposto insomma alla mia domanda, e volevo porre proprio il problema di questa invasione di telefonate quotidiane dai call center. Io all'inizio sono stata tra i consumatori che ha preso sicuramente qualche fregatura in questo senso, non avendo imparato bene a leggere insomma tutte le caselline varie della privacy. Adesso sono sempre molto attenta, però ecco, confermo che non sempre c'è questa tripartizione, certo. Attenta. E ultimamente, parlo dell'ultimo mese, ricevo telefonate continue, quindi nell'ordine di 10 telefonate al giorno, senza esagerazione. Perbacco. E regolarmente sul mio numero di cellulare, che sto attento, se le dico la verità, che anche io qualche volta qualche cellulare parlocco, numero sbagliato. Ma io non è che ecco. Si tratta di vergognarsi di questo, si tratta di difendersi. Per difendersi, esatto, esatto. Allora, mi sono anche segnata il registro delle opposizioni, che però non è servito sostanzialmente a nulla. Mi trovo a litigare con questi poveri operatori del call center, che alla fine penso siano molto simili a mia figlia, che è disoccupata e cerca lavoro in tutti i modi, e quindi stanno semplicemente seguendo il lavoro. Insomma, il tema, Letizia, è, stiamo andando in chiusura, come comunque tutelarsi per una persona che le ha messe in atto tutte quante. Sai cosa è successo ieri? Lo posso raccontare, Marco? Marco Lombardo ha ricevuto nel bel mezzo del pomeriggio di lavoro una telefonata di un call center che non so che cosa volesse vendere. Lui che è molto... Io chiudo direttamente il telefono, ormai l'ho raccontato. Vabbè, a tutti. Insomma, tu sei aggressiva. Marco ci è noto. Marco ci parla, dice: guardi, mi scusi, ma io sto lavorando adesso in un posto. E quello di là, stizzito, gli ha detto: guardi che sto lavorando anche io, Ecco, però visto che stiamo lavorando tutti e due, non disturbiamoci a vicenda. Detto questo, avvocato Busia, Letizia, le ha provate tutte quante, deve solo venire al garante della privacy a pregare il presidente Soru per cioè a rivolgersi direttamente a voi, insomma. Ahimè, sì, c'è questa possibilità di rivolgersi a noi, no, noi appunto siamo intervenuti più volte, contiamo però di non scaricare su Letizia e sui tanti altri che sono bombardati da queste telefonate questo onere, cambiando la normativa, una normativa sbagliata che appunto scarica oneri di difesa sull'operatore invece appunto di far sì che qualcuno bussi alla nostra porta. Un altro strumento di difesa importante che c'è in questo disegno di legge e che noi riteniamo essenziale è quello di dire: usate dei prefissi dedicati, in modo che quando obbligare gli operatori che vogliono fare marketing a usare dei prefissi dedicati, in modo che quando vedo che viene dallo 0XY quello che sarà, io posso abbattere la telefonata subito oppure programmare il mio telefonino perché bloccare tutte le telefonate che mi arrivano così. Il criterio della protezione dei dati personali è che l'utente deve poter scegliere, deve poter essere informato, deve poter scegliere dando il consenso, deve poter cambiare idea revocando il consenso. E allora resteremo poi sulle utenze, come vi abbiamo detto anche nella seconda parte. Noi per oggi ci fermiamo qui con le questioni di privacy, di e-commerce. Questa te la devo leggere, perché dimmi mi ha pure. Scritto un nostro ascoltatore su Facebook e mi ha scritto: capita che dopo le ricerche Google arrivino mail su offerte di prodotti che cercavi, questo è vero, ne abbiamo già parlato, e comunque se vuoi un depuratore, io sono titolare di una piccola azienda che si occupa di trattamento acqua, lo vedi? Vabbè, qui che non ci so trovano se... in ogni modo. Poi allora Simone, potrai richiamare in privato l'avvocato Busia e chiedere come tutelare la tua privacy, Deborah. Nel Grazie. Frattempo ci pensiamo. Grazie avvocato Busia, buona giornata. Buona giornata. Grazie molto. E noi invece adesso ci fermiamo per qualche istante, ascoltiamo ma come pochi. Vanno i mercati, sì. Poi torniamo e parliamo delle bollette con cadenza a 28 giorni. Potete sempre telefonarci o scriverci per intervenire in diretta 800 24 00 24. E adesso Deborah, le borse. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Due di denari. Dove eravamo rimasti? Allora, che potrebbe essere pronta ad arrivare finalmente questo stop, questo divieto in tutti i settori soggetti ad authority indipendenti di emettere fatture a 28 giorni, in modo non solo da fermare chi già lo fa, chi ha comunicato questa simpatica nuova prassi la scorsa estate così a tradimento durante le ferie, ma per evitare anche che altri vengano tentati dall'idea. In realtà mi pare che tutti siano caduti nella tentazione, quindi tra l'operatore della luce e del gas che insomma comincia uno, però poi anche gli altri dicono: ma carina questa idea di fare appunto il mese a 28 giorni e così allineandosi un po' al mese lunare, verrebbe da dire, le fasi lunari. Esatto, che però questo mese lunare si chiama anche in un'altra maniera. Sentiamo un po' se gli appassionati dell'argomento lo sanno. Lanciamo il quizzettone oggi, così a tradimento per Peter. No, non ti ammazzare a cercare la sigla, non è un problema. Peter Bescapè. Sono stupefatta. È fulmineo. Esatto. Fosse così fulmineo. Non fulminato, fulmineo. Auguriamogli che sia così fulmine anche la sua squadra domani sera, domani nel tardo pomeriggio. Ma tanto guarda, lui sta partendo per il Polo Nord, per cui si disinteressa alle questioni calcistiche. Quindi il quizzettone di oggi: come si chiama il mese di 28 giorni, anzi quello di 29,84 giorni? Se dovevano essere proprio corrette fino in fondo le società di energia, gas, telecomunicazioni, luce e quant'altro, dovevano fare le nuove bollette cadenzate ogni 29,84 però giorni. Dai, però dai Deborah, sono bastate le tabelline, 7x4, 28, 4 settimane la e sai. Abbiamo fatto il conto. Sì, me la ricordo ancora. Allora, ce l'abbiamo il nostro ospite? Non ancora, ma dov'è finito? Vabbè, detto questo, insomma, il tema è che c'è questo emendamento al decreto fiscale che è stato depositato dal PD al Senato a firma di Stefano Esposito. Noi facciamo le campagne elettorali prima del previsto ai deputati che portano avanti le nostre battaglie. Per fortuna non siamo ancora in campagna elettorale. Esatto, ed è il testo di questo emendamento, ricalca praticamente la famosa proposta di legge che era stata depositata alla Camera dall'altra deputata del PD, Alessia Morani, che noi avevamo anche intervistato la scorsa estate, perché si era veramente arrabbiata rispetto a questa questione. Tra l'altro la questione è spinosa, come adesso ci confermerà anche il nostro ospite che nel frattempo abbiamo ripescato. Esatto. Perché qui si tratta di pattuizioni, come dire, tra privati, pattuizioni contrattuali, commerciali, quindi uno dei due decide di alterare le condizioni del contratto e dice: se non ti sta bene vai da qualcun altro. Sì, prova tu, vero, a cambiare. Esatto. Vero, però è anche vero che un po' tutti i gestori di alcuni servizi si sono subito volentieri adeguati a questa prassi dei 28 giorni e quindi anche trasferirsi diciamo non era così eccitante, esatto. Non era così appagante. È un mondo nel quale sguazza Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, l'associazione dei consumatori, molto attenta a questa vicenda. Buongiorno. Buongiorno, sì, stavo sguazzando e pensavo di andare in un altro paese, così non mi facevano la fatturazione a 28 giorni. Vabbè. Magari adesso la scampiamo se questo provvedimento va avanti. La sentiamo un po' tamponata, come se avesse una mano davanti alla cornetta del telefono, Luigi. Allora proviamo intanto a riepilogare la faccenda, come quando si parte dobbiamo tornare indietro fino a marzo. Facciamo un piccolo riepilogo delle puntate precedenti molto veloci, Luigi, per poi andare a capire se siamo in procinto di cambiare questo stato di cose. Allora, a primavera, a marzo, i nostri validi eroi degli operatori telefonici decidono di adottare un calendario tutto loro, anziché il gregoriano che è in vigore da qualche centinaia di anni, adottano il calendario delle telefoniche, ovvero passano la fatturazione a 4 settimane, quindi significa che essendo 52 settimane l'anno, diviso 4 fanno 13 mesi. Lo fa il primo operatore e nell'arco di 2 settimane si accodano immediatamente tutti gli altri operatori, quindi diventano i 4 principali operatori della telefonia italiana, quelli che hanno il 90% del mercato della telefonia, fatturanti a 4 settimane anziché a cadenza mensile. La Agcom non fa nient'altro subito che aprire un'istruttoria, ma rileva che sul fisso non possono farlo, mentre sul mobile hanno una certa elasticità dettata dal fatto che in Italia esiste il codice delle telecomunicazioni. Comunque sia, gli operatori nemmeno sul fisso tornano indietro, fanno un ricorso al TAR che è tutt'oggi pendente e dicono: beh, vediamo, quando il TAR si pronuncerà decideremo cosa fare. Nel frattempo incassano quasi 1,2 miliardi da questa fatturazione a 4 settimane. Durante però l'estate, a luglio, un operatore che non c'entra nulla con la telefonia decide di fare la stessa identica cosa, un operatore della PTV. Allora noi iniziamo a fare un sacco di cagnara, sentiamo che fortuna che c'è qualche deputato ogni tanto che ricorda che esistono i consumatori, un deputato del PD, Morani, la sentiamo, cerchiamo di lavorare insieme, lavoriamo con gli uffici legislativi e impostiamo un provvedimento che introduciamo all'interno della legge di bilancio. Quindi viene incardinato prima alla Camera e pari pari, identico identico, viene portato anche al Senato. Questo significa che se questo provvedimento all'approvazione della legge di bilancio venisse approvato così come l'abbiamo impostato, primo, le fatturazioni in tutti i servizi non potranno più essere a 28 giorni ma solo con cadenza mensile, calendario gregoriano. Secondo, per evitare che i signori operatori della telefonia, ma anche di altri settori, la smettano di prendere in giro i consumatori e le autority infiscandosi delle multe, a abbiamo raddoppiato le sanzioni, perché erano 20 anni che esistevano le autorità, ma le multe rimanevano ancora non scritte lire, pensiamo. E terzo, proprio per evitare che nemmeno questo raddoppio di sanzioni faccia paura agli operatori che vogliono fare pratiche commerciali scorrette, abbiamo introdotto un indennizzo automatico non inferiore a 50 euro per ogni consumatore che riceve una pratica commercialmente ritenuta commercialmente scorretta. E lei dice non è una sanzione irrisoria questa, ma diventa corposa alla fine, perché ne fanno talmente tante di questi tentativi di appunto variazione della cadenzazione della bolletta, che alla fine... Questo si chiama lo ius variandi, che il nostro paese esiste, è vero che esiste la libertà di mercato, è sancita dalla Costituzione e ci mancherebbe altro, però esiste anche una parità contrattuale, perché non è che può variare soltanto il soggetto forte, e il soggetto debole nemmeno se ne accorge che è avvenuta la variazione. Dov'è il trucchetto? Il trucchetto è che in alcuni regolamenti che abbiamo adottato attraverso le authority è stato detto sì, tu puoi cambiare le condizioni contrattuali purché il consumatore venga debitamente avvisato molti giorni prima e abbia il tempo di recedere gratuitamente dal contratto. Questo nel cosiddetto telefonia mobile avviene attraverso il regolamento telefonico, l'articolo 71. Che cosa accade però? Che spesso mi fanno la variazione contrattuale, me la comunicano con SMS, posso recedere in effetti dal contratto senza costi, ma su quello stesso contratto mi hanno venduto a suo tempo il telefonino, il dispositivo, il modem, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se recedo anticipatamente non pago la parte riferita all'abbonamento. Cioè non pago costi di recesso in merito a quello, ma pago montagne di costi di recesso rispetto a tutto il resto, e quindi mi viene inconveniente fare un recesso. Certo. E quindi il consumatore rimane incastrato in quella partita. Quindi cosa dobbiamo andare a toccare? Adesso il secondo step, e si salvi chi può, andremo a toccare lo ius variandi, e lo faremo a brevissimo. Facciamo prima passare questo provvedimento, infatti si mettano l'anima in pace i nostri signori operatori, non c'è niente da fare, anche il governo per fortuna appoggia finalmente una cosa buona per i consumatori. E poi il passaggio successivo è quello di modificare lo ius variandi affinché per una volta tanto non solo ci sia adeguata informazione precedente, ma sia anche il consumatore in grado eventualmente di recedere nel caso anticipatamente da un operatore che gli offre ad esempio un servizio che non è dovuto. Luigi, Gabriele, si fermi lì, esatto, si fermi perché dobbiamo dare spazio al traffico, torniamo, potete come sempre chiamarci. Ma intanto la legge potrebbe arrivare prima che si pronunci il TAR, se non ho capito male. Il TAR dovrebbe pronunciarsi a febbraio, se mi ricordo bene. Adesso quindi, ci fermiamo qualche istante per il traffico e controlliamo. Due di denari. Se parliamo, Debora, di mese lunare, perché sei sorpresa? Parliamo di mese lunare perché appunto le bollette cadenzate ogni 28 giorni, poi vedremo appunto se il Parlamento metterà un freno, come ci stava annunciando Luigi Gabriele, responsabile affari istituzionali di Codici, però per adesso gli operatori della telefonia si sono volentieri rapidamente adeguati. Prima del traffico ci chiedevamo, ma quando deve decidere il TAR? Ho ricontrollato, allora il TAR deciderà dopo il 7 di febbraio, quindi prima dovrebbe arrivare la conversione del provvedimento, dell'emendamento di cui ci ha parlato anche Luigi Gabriele. Intanto Marco ci scrive, con le fatture a 28 giorni come fanno con l'IVA mensile gregoriana? Dovranno scioperare? No? L'IVA gregoriana o l'IVA lunare? Esatto. Adesso dobbiamo introdurre queste nuove categorie. Un altro ascoltatore malizioso come me dice, se fattureranno di nuovo a 30 giorni però riproveranno ad aumentare le tariffe, ma tanto di fatto con questo ovviamente con l'accadenzamento, si dice cadenzamento, a 28 giorni non lo so, ma tu di dillo. Fatto c'era stato un aumento calcolato di circa l'8% delle tariffe complessive, non lo so come andrà a finire. Detto questo, come stanno adesso le cose non ci stanno bene e quindi dobbiamo cambiarle. Terzo elemento che ci metto, io ieri cercavo della frutta secca da comprare online al volo, quindi ovviamente oggi sono bersagliata di pubblicità di questo settore. Ne abbiamo parlato nella prima parte di Due di Denari. Abbi il coraggio di raccontare a tutti cosa mi stavi raccontando a microfoni spenti. No, ti stavo raccontando che io faccio spesso ricerca ad esempio di autovetture, mi piace molto, però non capisco perché anziché arrivarmi, mi arrivano anche richieste, cioè segnalazioni pubblicitarie di autovetture e va bene, ma poi anche quelle penso che siano bersagliati molti maschi italiani, di incontra donne mature. Ora, io non è che mi offenda per incontra donne, è per il mature che mi dà un po' fastidio. Come donne fanno motori, a ricavare anche la mia età? Dolori, non lo so. Luigi Gabriele, che sa che di che cosa va a caccia su internet, di quali informazioni, e poi viene bersagliato dalle proposte commerciali di ogni ordine e grado, di ogni tipologia. Luigi? Io sono un patito della alta tecnologia, soprattutto al polso, mi piacciono gli smartwatch, mi piacciono tutto quello che sono, vedi, i dispositivi ipertecnologici. Ho imparato, non faccio la pubblicità ovviamente, ho imparato a comprarli direttamente dalle fabbriche cinesi dove li producono, ovviamente senza brand. Quindi ha disintermediato completamente, non completamente. C'è più Pensate che uno smartwatch che normalmente in una grande catena italiana paghi 50 euro, lo pago più o meno $10, quindi sono più o meno 8 euro. E quindi ogni volta che vado sui motori di ricerca mi si affollano le pagine di questi dispositivi. Certo. Bene, comunque stamattina abbiamo fatto il punto della situazione su questa storia delle bollette ogni 28 giorni. Sappiamo, il mondo insomma si sta muovendo. Se vogliamo fare il punto, diciamo che c'è molta attenzione sia delle associazioni dei consumatori sia anche della stessa politica, e quindi si annuncia un intervento sullo ius variandi, insomma intanto sulle bollette a 28 giorni, poi forse anche sullo ius variandi, però sarà un intervento che arriverà per il 2018. Per il momento esatto, dobbiamo stare ad aspettare. Infatti la legge sarà retroattiva, ci chiedono ascoltatori. E se sì, chi ha stipulato il nuovo contratto con queste nuove modalità per le 4 settimane, vuol dire che ha accettato, quindi potrà tornare indietro dopo? Beh, assolutamente, la legge, come tutti sanno, non può essere retroattiva, anche se negli ultimi giorni hanno provato a fare qualche legge retroattiva, ma su altri settori. Sul tema del passato e di chi nel frattempo ha attivato i nuovi contratti, in effetti ce lo stiamo ponendo, e adesso l'obiettivo comunque è sanare l'anomalia della fatturazione a 28 giorni. Per legge non possiamo dire che fa riferimento anche a tutti coloro che già hanno attivato un nuovo contratto, perché come sanno accetti le condizioni contrattuali nel momento in cui ti stipuli, no? Quindi vedremo come sistemarle, probabilmente eliminando con una legge la fatturazione con cadenza al di sotto dei 30 giorni, probabilmente, io sto ipotizzando, dovrebbero venire a cadere eventuali ulteriori contratti con fatturazione diversificata. Però questo ce lo porremo nel momento in cui la legge verrà approvata, che noi auspichiamo che questo accadrà concretamente e certamente. Grazie a Luigi, grazie Gabriele. Grazie Luigi, a presto. Allora, intanto, visto che siamo a venerdì, abbiamo il nostro... È il mio momento, Deborah. Il tuo, esatto, io ho il mio tutti i giorni, tu almeno... E no, allora, Peter Bescapè, per favore, la sigla. Agevolaci. Io non giocai quella notte al poker, ma sono stato insieme alla sua amica. La mitica sotto le lenzuola. Bellissima. Di Adriano Celentano, che abbiamo scovato insieme a Marco Lombardo e Giulia Lauricella proprio per l'occasione. Perché ti voglio fare una domanda, Deborah, le grandi domande della vita: secondo te il bridge è uno sport o no? Sono un po' in difficoltà perché, come ti raccontavo ieri, il gioco a carte non è esattamente la mia grande passione. Io ho un'amica che tenta in ogni modo di portarmi nel suo club di burraco, ma per ma me è tipo l'acronimo di burro cacao, un rossetto, quindi non ho la più pallida idea. Pensa dimmi che... tu, ma no, quindi è uno sport? No, non è che si suda tanto a giocare a bridge. Però potrebbe essere considerato uno sport, tant'è vero che l'associazione inglese, la English Bridge Association, ha chiesto, sì, perché... lei praticamente è un'associazione che si occupa di diffondere il bridge duplicato, che è una forma di competizione. No, non sorridere, perché è una forma di competizione anche di livello internazionale, e si giocano di questi tornei di bridge duplicato. Ora, per essere della IBA, della English Bridge Association, tu devi pagare una quota. La domanda era: ma su questa quota si applica l'IVA? Oh no, non capisco perché la cosa ti faccia perché sorridere. L'IVA guarda anche il bridge. L'IVA guarda tutto, ti guarda anche le carte. Sì. Allora, si applica l'IVA oppure, essendo uno sport, non si applica? Beh, sono andati a chiederlo alla Corte di Giustizia, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è riunita e ha deciso, è storia di ieri. Vedi proprio. I contribuenti cosa devono pagare? Mi dispiace, darò una notizia terribile: il bridge non può essere considerato uno sport. E quindi... Perché? Perché non c'è una sufficiente attività fisica e quindi anche se pur riconoscendo l'utilità del bridge, non è uno sport, la Corte di Giustizia. E quindi l'IVA c'è. Io guardo, ma quante ne dobbiamo sentire prima di morire? Un bel po'. Detto questo, continueremo anche lunedì. Vi anticipo che parleremo di educazione finanziaria. Abbiamo con noi Anna Maria Lusano.